ci davano la sola, uno sguardo o soltanto la parola, ci bastava per capire dove il lupo va a guaire. È la notte, quei ricordi della sera, fra i fumi degli spini e la barbera, ci facevano pensare dove il lupo va a sbranare. A Kathmandu non c'eri più, ma ho visto i tuoi occhi sull'asfalto blu. A Kathmandu quando ero giù. E siamo qui a Cosenza nel pomeriggio di questo 6 maggio per questa ennesima occupazione di case qui a Cosenza, un problema, quello delle case, veramente molto sentito. Abbiamo qui con noi una nostra amica che ci vuole dire qualcosa. Niente, noi abbiamo bisogno di queste case perché siamo tutte persone che comunque hanno disagi con bambine. Abbiamo dovuto fare questa azione per il futuro dei nostri figli. Ma la situazione delle case, delle case popolari a Cosenza, tipo le graduatorie, si muovono, ci sono provvedimenti da parte, diciamo, dell'ATERF per risolvere questo problema, oppure è tutto fermo? Oddio, io personalmente, per esperienza mia, ho sempre chiesto aiuto, non mi è stato mai dato da nessuna parte, quindi io non ho casa e mi sono aiutata tramite le mie forze stesse. Quindi come possiamo fare per risolvere magari i nostri problemi? Continuiamo a chiedere ai nostri politici se ci danno una mano dall'alto, o che dobbiamo fare? Sensibilizzare tutti, quindi a partire da comunque chi veramente è interessato al bene comune delle persone che abitano questa città. Ok, grazie. Comitato Prendo Casa a Cosenza ormai da più anni agisce sul territorio con una serie di iniziative importanti, ultima quella dell'occupazione della casa qui in Corso Telesio 6 maggio 2011. Dunque, questo comitato che cosa ci dice? Ma il comitato dice che è la seconda occupazione che facciamo in un mese, entrambi i palazzi che abbiamo occupato, uno più piccolo, questo molto più grande, sono palazzi comunali destinati all'università. In virtù di un vecchio protocollo d'intesa che c'era tra Comune di Cosenza, Università della Calabria e Regione Calabria, sempre per un vecchio disegno che era quello di portare a Cosenza una facoltà dell'università, disegno che è chiaramente sfumato, oggi non esiste più, l'università si ritrova ad avere in comodato d'uso gratuito o comunque ad affitti calmierati per studenti, ricercatori, dottorandi, che però di fatto sono sottoutilizzati. Basta pensare che a Palazzo Bonghini, un palazzo che occupammo anche nel 2007 con 75 famiglie, attualmente ci stanno 9 ricercatori e 4-5 studenti del conservatorio, a fronte di 13 appartamenti enormi, perché è un palazzo che si svolge su 5 piani, quindi enorme. Le istituzioni che cosa stanno facendo? Che cosa potrebbero fare invece? Le istituzioni sostanzialmente non stanno facendo niente se non gli interessi dei palazzinari, perché le liste ATERP, le liste delle assegnazioni delle case, i bandi sono fermi, vengono fatti questi bandi ogni 2 anni per legge, però di fatto non sono seguiti da assegnazioni. Basta pensare che l'ultimo bando che è uscito ad agosto del 2010, sotto l'elenco degli aventi diritto c'era un nota bene, l'ATERP in questo momento non ha case da assegnare né tantomeno fondi per costruire nuovi alloggi popolari. Questo è quanto stanno facendo le istituzioni. Quindi si fanno i bandi ma non si assegnano le case. Non si assegnano le case perché di fatto non c'è una politica abitativa seria. Le case che ci sono già assegnate, che erano state assegnate negli anni precedenti, non vengono fatte le turnazioni e il turnover, cioè rispetto alle decadenze, rispetto alle situazioni di reddito che cambiano per un nucleo familiare, cioè è come se uno prende la casa popolare e gli rimane di diritto. Oggi in piazza c'è stato lo sciopero generale indetto dalla CGIL. Il comitato Prendo Casa sappiamo che ha volantinato per rendere pubblico l'azione che si svolgeva oggi e in effetti dal palco molte persone hanno manifestato la loro solidarietà alla problematica. Che cosa ci dite in merito? Beh, è chiaro che comunque da ottobre in poi, come Comitato Prendo Casa e come varie altre realtà in lotta sul territorio, si è guardato a quanto ha fatto la FIUM in particolare e la CGIL. C'è stato un autunno caldo, si era chiesto uno sciopero generale generalizzato, che però di fatto non c'è stato perché è stato frammentato chiamando diverse piazze. Basta pensare che solamente in Calabria ce ne sono 7 diverse di piazze, per cui non c'è stato uno sciopero generale, ma noi lo chiamiamo sciopericchio perché è stato ridotto veramente a sagre di paese. Doveva essere un momento in cui confluivano tutte quante le soggettività precarie che ci sono oggi, che sono diverse da quelle dei tesserati della CGIL o comunque delle realtà sindacalizzate, perché c'è tanto lavoro a nero, c'è tanta precarietà, ci sono tante situazioni di disagio che si manifestano sotto altre forme. Noi abbiamo inquadrato chiaramente nel bisogno casa e nella lotta per il diritto all'abitare proprio, generalizzato noi lo sciopero facendo proprio questa azione qua, rivendicando in qualche modo una forma di reddito indiretto, perché si inquadra in questo. Se noi andiamo a vedere la componente delle 8 famiglie che hanno occupato oggi, abbiamo persone che lavorano all'interno delle cooperative a 600 euro al mese, disoccupati, inoccupati, parcheggiatori abusivi, comunque persone che vivono veramente ai margini della vivibilità minima proprio e di quanto dovrebbero avere. Cosenza comunque è una città strana perché vediamo soprattutto su Viale Parco uno sviluppo abnorme molto probabilmente delle costruzioni, si fanno tante case eppure la gente non ne ha, come mai? Perché sostanzialmente a Cosenza c'è un patto di ferro tra politici, amministratori e palazzinari. E molto per inciso c'è anche un rapporto della DIA, Cosenza è la lavatrice dei soldi della malavita, per cui attraverso il cemento si ricicla anche denaro sporco. Quindi vediamo questi palazzi sorgere come funghi che però sostanzialmente non vengono abitati da nessuno, né tantomeno c'è una richiesta immobiliare tale da poter giustificare tutti questi palazzi, cioè funzionano solamente per riciclare denaro sporco, si tramuta cioè movimentazione di inerti, di camion, di cemento, di mattoni, quindi qui c'è la politica del mattone che è trasversale da destra a sinistra e negli ultimi 20 anni almeno. Difatti Cosenza è la seconda città più cementificata d'Italia, dove c'è un consumo di suolo superiore a tutte le altre città italiane, seconda mi pare solamente a Milano, qualcosa del genere. Mentre invece quello che diciamo noi è una politica veramente del recupero dell'esistente, attraverso questo si potrebbe risolvere anche il problema delle tante emergenze abitative che ci sono, perché il fatto strano non è solamente dei tanti palazzi, il fatto strano è che questi palazzi potrebbero soddisfare una richiesta per 20.000 persone in più rispetto a quella che è la popolazione residente, migranti compresi e quindi non residenti ufficialmente a Cosenza. Ci sono 8.000 stanze vuote che di fatto non necessitano a nessuno, cioè proprio con dati anagrafici alla mano di quelle che sono le nascite si continuano a costruire, mentre invece ci sono tantissimi palazzi vuoti, appartamenti vuoti, seconde e terze case sfitte, ci sono palazzi pericolanti che potrebbero essere recuperati, e questo qui consentirebbe anche una salvaguardia del suolo, del territorio, senza un consumo di suolo così abnorme con queste colate di cemento che sappiamo tutti quanto sono devastanti per l'ambiente. Quindi anche così si verrebbe a recuperare il centro storico, ad esempio? Assolutamente sì, si verrebbe a recuperare, a rivitalizzare, a ripopolare, perché oggi il centro storico attraversa una fase veramente di degrado e di abbandono, attraversa una fase in cui per strada ci sono solamente spacciatori, ci sono spacciatori e consumatori di sostanze pesanti, per cui nuovamente la gente ha paura di venire nel centro storico, un po' come succedeva negli anni 80 qui a Cosenza. Indi Radio vi saluta e vi aspetta alla prossima puntata. Speriamo questa volta che non si tratti più di edizioni speciali, ma speriamo proprio di potervi allietare con le notizie provenienti da Indi Media Calabria e Indi Media Network Globale di informazione dal basso. Un saluto, ciao!